Il viaggio. Ritorniamo nuovamente in diretta dopo questa piccola pausa musicale e appunto pubblicitaria. Qui su Radio Stonata e su Radio Ecosud, e siamo in compagnia della nostra Barbara, che ci sta raccontando appunto il suo viaggio in Etiopia. Abbiamo parlato più o meno dell'organizzazione del viaggio, ma ora io direi proprio di entrare nel vivo del racconto, Barbara, e quindi itinerario e tutto quello che è successo appunto in questo tuo viaggio in Etiopia. Sì, allora l'itinerario, dunque, abbiamo scartato l'Omo Valley. Abbiamo scartato la Dankalia perché, insomma, come primo approccio dell'Etiopia ci sembrava di evitare subito questa zona molto particolare, che però rimane un po' un desiderio, perché insomma chi vuole si può andare a informare. È una zona depressa al di sotto del livello del mare, di circa 100 metri al di sotto del livello del mare, con dei scenari vulcanici, deserti di sale, eccetera, molto molto affascinanti, ma si può visitare solo in un brevissimo periodo dell'anno, tra gennaio e febbraio, perché altrimenti è una zona completamente inospitale per l'uomo, ci sono delle temperature atroci. Dunque, evitiamo l'Omo Valley, evitiamo la Dankalia, abbiamo optato per una rotta storica del nord dell'Etiopia, un itinerario che variava dal punto di vista culturale, antropologico e naturalistico, e il nostro itinerario è durato circa 13 giorni, compreso del viaggio, 13-14 giorni compreso del viaggio. Siamo partiti il 24 di dicembre e siamo ritornati il 6 di gennaio, e abbiamo attraversato tantissimi villaggi, parchi naturali, visitato tantissime chiese, e questo ci ha dato insomma un assaggio di un paese ospitale, intanto, perché la gente è veramente stata molto ospitale, molto accogliente, la gente che abbiamo incontrato, dei paesaggi assolutamente variegati, tantissima agricoltura e inaspettatamente tantissimo verde. Abbiamo trovato dunque un paese, una parte del paese almeno, completamente verde, coltivata, colorata, cosa che magari in Africa, un po' per i nostri anche preconcetti eccetera, non te immagini, insomma non te immagini così immediatamente un paese africano. E invece Barbara, scusami un attimo, con la popolazione com'è stato il rapporto? Cioè, come sappiamo che allora, voi non solo turisti avete un certo feeling con gli abitanti del posto, però sono curioso un po', perché come prima tu hai accennato, abbiamo parlato un po' anche del viaggio che aveva fatto Elena, quindi tu come ti sei trovata? Allora, noi abbiamo fatto un viaggio completamente, tra virgolette, scortati, nel senso che siamo stati accolti in aeroporto dal nostro tour operator Mamo Melkamo, che ci ha appunto preso in aeroporto e portati in albergo, e da lì ci ha affidato poi a un driver stupendo, bravissimo, veramente uno, ne abbiamo venuti sempre tutti molto bravi, ma lui lo metto tra i top 10 in assoluto, che appunto ci ha permesso di visitare in assoluta sicurezza, accompagnati tutti i posti che avevamo messo nell'itinerario, i luoghi che avevamo messo nell'itinerario. E questo ci ha cioè lui ci ha fatto molto da filtro da questo punto di vista, dunque abbiamo avuto molto il contatto con lui, molto il contatto con Mamo, che addirittura ci ha ospitati poi l'ultimo giorno a casa sua, ci ha tenuto a invitarci ad una cena insieme a tutta la sua famiglia eccetera. Appena scendevamo dalla macchina, comunque accompagnati da lui, la gente ci salutava eccetera, ma non era tra virgolette invadente, perché questo ci creava molto filtro, insomma non venivano a chiederti nulla eccetera, perché eri comunque accompagnato da uno di loro. Quindi, dunque, per la sicurezza che io... cioè la sentivi, cioè ti sentivi al sicuro. Poi ho letto nell'articolo che bisogna anche informare la Farnesina su... Sì, assolutamente, vabbè, noi qualsiasi viaggio facciamo fuori dall'Europa scriviamo sempre le nostre tappe sul sito, insomma, di unità di crisi della Farnesina, perché è giusto che comunque qualsiasi momento uno perda le tracce per qualsiasi motivo, cioè la Farnesina deve sapere dove siamo, insomma, orientativamente. E però dopo, cioè, io faccio sempre dei viaggi in sicurezza e ci siamo informati comunque su quali fossero le zone più o meno anche calde che uno può trovare in un paese, diciamo che l'Etiopia è un paese democratico e abbastanza stabile dal punto di vista politico, però è comunque un paese africano, dunque non tutti i luoghi, non tutti i posti sono da visitare e soprattutto c'è da farlo con una certa oculatezza, diciamo così. Dunque, per esempio, Mamo ci diceva che la zona di Aksum in questo periodo non è una zona che lui consiglia, e sempre lui ci ha voluto accompagnare al mercato di Addis Abeba, che è un mercato immenso, dicono tra i più grandi di tutta l'Africa, ma ci ha detto: guardate, veniteci, perché comunque ho capito che a voi interessa anche l'aspetto antropologico eccetera, ma lo facciamo in macchina senza scendere mai. E guarda caso la Farnesina lo indicava come un posto a rischio. A rischio poi vuol dire tante cose, cioè non è magari a rischio attentati o chissà cosa, però c'è talmente tanta gente che magari, e abbiamo visto che gli europei non ce n'erano, tu scendi da una macchina, ti inizi a camminare, ti puoi mettere in pericolo. Dunque, per questo la Farnesina giustamente lo indica come un posto da non prendere alla leggera, ecco. Poi nel post è scritto, scusa se ti interrompo, perché sì, prego, di evitare di dare soldi ai bambini per strada, caramelle o anche penne. Sì. Puoi essere strattonata per questo, no? No. Ma allora, in questi paesi, partendo dall'India, arrivando fino in Madagascar, l'Etiopia, il Marocco, purtroppo sovente si trovano bimbi che vanno a scuola o non ci vanno, non si capisce bene, eccetera, e che chiedono comunque qualcosa. Nella migliore delle ipotesi potrebbe essere la caramella, che non bisogna dare, perché comunque noi dobbiamo sempre pensare che dal punto di vista igienico-sanitario loro non hanno uno standard come il nostro, dunque le cure dentali sono di difficilissimo, cioè difficilmente riescono a potersela permettere, dunque se noi diamo delle caramelle, a lungo andare queste caramelle cariano i denti, insomma, e comunque portano malattie eccetera. Dunque dal punto di vista, diciamo, di etica e di etica non va questa cosa, è sanitaria. Dal punto di vista, diciamo, delle penne eccetera, il nostro driver ci aveva detto io non ne avevo eccetera, però come indicazione ci ho detto non diamole, è meglio che se avete qualcosa io vi porti magari in un'associazione, in una scuola eccetera, e lì si può fare una donazione, ma il denaro che potrebbe anche voler dire $10 per dire, cioè non ci vogliono grandi cifre per poter magari donare qualcosa di significativo in certi luoghi, oppure magari portare dei materiale scolastico e donarlo. Io ad esempio alla fine del viaggio ho dato una parte delle medicine che avevo a largo spettro degli antibiotici o la tachipirina eccetera, li ho dati a lui in maniera tale che potesse darle a delle associazioni che insomma ne potessero fare un buon uso, ecco. E dunque, piuttosto che donare o soldi o caramelle o penne eccetera a X persone in mezzo alla strada, che comunque questo gesto per noi è un gesto tra virgolette, insomma, che ci dà anche del piacere eccetera, però favorisce direttamente o indirettamente l'accattonaggio, e magari questi bimbi non vanno neanche a scuola, e promuovere invece delle associazioni, spesso sono anche delle associazioni di radice europea eccetera, che fanno insomma delle azioni concrete dentro situazioni di disagio importanti in questi paesi. Invece per quanto riguarda appunto vaccinazioni e quant'altro, c'è stato bisogno di qualche vaccinazione in particolare? Allora, la nostra indicazione, vabbè, di qualsiasi turista un po' oculato, è quello di andare comunque all'ufficio sanitario predisposto che ogni ASL ha, per avere delle informazioni dettagliate, specifiche sul posto specifico in cui si va. Noi siamo andati, abbiamo una copertura vaccinale abbastanza ampia, perché viaggiando parecchio, siamo stati anche in India eccetera, siamo abbastanza coperti dalle varie epatite A, B eccetera, e le nostre vaccinazioni dunque erano più che sufficienti rispetto alla zona in cui andavamo, che è una zona, quella che abbiamo fatto, che va dai 2500 metri di latitudine fino a oltre 3000. Dunque non è presente la zanzara che può portare alla malaria, dunque niente malaroni, niente profilassi antimalarica, e le vaccinazioni che avevamo erano più che sufficienti. Insomma, la stagione era quella secca, dunque abbiamo trovato sempre buone, belle giornate, ma in pioggia, e niente, dunque non ci sono state delle accortezze particolari per quella zona. Una controindicazione, almeno per quello che è stato per noi, era proprio l'altitudine. Io non ero abituata. Ti soffre l'altitudine? Non te ne rendi assolutamente conto, perché tu arrivi ad Addis Abeba a 2500 metri, ma è completamente piatto il tutto, e trovi delle colline, delle montagne, eccetera, ma non ti rendi conto di essere già a 2500 metri e vai oltre. Dunque ho avuto molto affaticamento, soprattutto i primi giorni, molta spostatezza, facevo una rampa di scale, pensavo di aver fatto chissà cosa, e ecco, più che altro affaticamento. Invece sull'alimentazione, cioè il cibo, come ti sei regolata? Allora, io personalmente bene, loro mangiano molte verdure, molta carne, ho trovato direi quasi tutti i tipi di carne, ma non il maiale, dunque anche molto manzo, eccetera. Hanno qualcosa ancora di retaggio della cultura alimentare italiana, mangiano spesso la pizza, si trova, che ci assomiglia anche abbastanza, della pasta, e poi loro mangiano una sorta di pane che accompagna quasi tutte le loro pietanze, che fa anche da piatto, e su cui si può mettere, insomma, i fagioli, le verdure, la carne, e è una specie di piadina praticamente fatta con un loro cereale, il teff, e che mangiano, insomma, lo si trova dappertutto. Però devo dire che c'è una certa varietà, c'è anche il pesce, perché abbiamo, non di mare naturalmente, ma di lago, perché in una parte in cui abbiamo visitato, c'è uno dei laghi più grandi di tutta l'Africa, che è il lago Tana, bellissimo tra l'altro, con degli isolotti, con dei monasteri sorprendenti, perché ecco, una delle cose caratteristiche e veramente sorprendente di questo viaggio è stato scoprire dei monasteri con dei dipinti meravigliosi che in Africa forse non ti aspetti, insomma, delle chiese veramente deliziose. Quindi è un viaggio di me. Quindi hai sentito ancora un po' di retaggio italiano? Loro sono comunque cristiano cattolici, e dunque sì, diciamo sono più vicini a noi culturalmente, anche come religione, eccetera, rispetto che tanti altri paesi. Non seguono il nostro calendario, dunque loro sono, ora non mi ricordo se 5-6 anni dietro rispetto a noi, quindi i giornali sono nel 2012, non mi ricordo, 2014 credo, una cosa del genere, e anche come giorni sono leggermente... Quindi per fare un passo indietro nel passato bisogna andare in Etiopia, mi sa. Esatto, io ho pensato, quasi mi trasferisco qui, così almeno ho tipo 5-6 anni meno, che non sarebbe male, insomma, scalarseli. Cioè, no, devo fare pure io questa cosa, ma ci stavo pensando. Non so, hai altro da aggiungere, se no io ti lascio e ci sentiamo prestissimo. Ma rispetto a questo post, no, che perché ripeto, è un post molto divulgativo, è dedicato a chi sta pensando o chi non ha ancora pensato, ma magari se lo sente vicino un viaggio del genere, è molto orientativo su cosa fare per organizzarlo. E poi magari nei prossimi invece parlerò più nel dettaglio di delle cose meravigliose che ho visto, insomma, tipo la Libella, il Monte Sibiens, delle veramente tanti aspetti che creano un vero e proprio mosaico di questa parte dell'Etiopia, che ripeto è stata per me una grandissima sorpresa, insomma, dal punto di vista della gente, dei paesaggi, di quello che ho scoperto, e niente, sicuramente sono grata a questa amica che nella notte buia e tempestosa a mangiare i tortelli in trattoria, come appunto è l'incipit del mio post, mi ha dato questa idea: ma perché non pensiamo all'Etiopia? Effettivamente non ci avevo ancora pensato, ed è stata molto brava a farmelo pensare. Grazie alla nostra Barbara, e ci sentiamo prestissimo, Barbara. Spero con un'altra voce, ma purtroppo, ecco, mi sono scusata, ma ho un grande raffreddore, dunque stasera era forse la sera meno indicata per parlare in radio, ma vabbè, capita. Grazie Barbara, ciao, alla prossima. Ciao, ciao, grazie a tutti. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.solouristi.it. Ben ritrovati qui su Radio Stonata, ma come vi ho già detto in apertura di trasmissione, questa è la nostra seconda puntata. Non siamo soltanto in diretta sul web, ma siamo anche in diretta in FM su Radio Ecosud, per chi ci ascolta naturalmente nel sud della Calabria maggiormente, e quindi anche l'FM fa parte di questa nostra nuova avventura. Questa sera ho un'altra ospite di Non Solo Turisti. Prima fuori onda mi ha cazziato sul suo cognome, che glielo sbaglio sempre, quindi io mi impegnerò al massimo per sbagliarlo. Diamo il benvenuto e il buonasera alla nostra Barbara Ciccola. Oh, che bravo, ti posso dare 10 questa sera. La nostra professoressa, perché tu non lo sai Barbara, ma noi in regia abbiamo un professore a parlarci, c'è una professoressa, un insegnante, quindi guarda, è bellissima questa serata, Sì, no, non iniziamo a parlare di scuola, perché gli insegnanti, i professori, di qualsiasi grado, a un certo punto prendono delle strane derive quando si ritrovano e si va a parlare sempre di scuola. Dunque, no, questa sera noi qui siamo a parlare di viaggi. Così mi è stato detto, vero? Sì, no, parliamo di viaggi. Te lo stavo dicendo fuori onda, infatti ti ho stoppato e ti ho detto, vabbè, non ce ne parlare adesso, raccontacelo in diretta. E ti ho detto che del tuo articolo, la parte che mi ha colpito maggiormente è l'inizio di questo racconto che fai di come è nata l'idea di fare questa vacanza. Non so, se vai a memoria, ce lo racconti un po' anche così, ci sarà sì, poi il link, sì. Quindi da là si può vedere l'articolo, le bellissime foto, però... Scusa, non sentivo la voce che scemava, pensavo che avessi che ti fossi fermato. No, intanto per chi ci ascolta, ci stiamo riferendo al mio ultimo post sull'ultimo viaggio che abbiamo realizzato in Etiopia. È uscito circa 15 giorni fa ed è molto divulgativo, racconta a tappe come organizzare un viaggio fai da te in Etiopia, parzialmente fai da te in Etiopia. E sì, Beppe, ti stai riferendo all'incipit, sì, di questo, come è nata proprio l'idea di questo post, di come è nata questa idea, perché insomma ci siamo ritrovati quattro amici, due mie amiche, due nostre amiche, anzi, di Milano, con cui abbiamo realizzato un viaggio un anno e mezzo fa, due anni fa oramai, in Uzbekistan, su cui abbiamo scritto, insomma, abbiamo parlato anche qui sulla Radio Stonata, e ci siamo ritrovate l'anno scorso, non mi ricordo bene in che periodo, però era sicuramente una notte fredda, in una trattoria... In pieno inverno, sull'articolo c'è scritto in pieno inverno, quindi sarà stato circa questo periodo, dai. Ma sì, ora sì, possibile più o meno questo periodo. E allora parli del più e del meno, ricordi insomma episodi di viaggio, momenti simpatici, eccetera, e dici, vabbè, è stata così bella l'esperienza di viaggiare in quattro, cosa che noi raramente facciamo perché siamo due viaggiatori un po' solitari, ci piace insomma viaggiare in maniera indipendente, eccetera, e trovare sempre poche mediazioni con gli altri, però insomma in questa formula eravamo stati veramente bene, proviamo a pensarne un altro, allora andiamo di qua, andiamo di là, alla fine una di noi dice, ma abbiamo mai pensato all'Etiopia? E io non ci avevo mai pensato effettivamente, anche perché con l'Africa, a differenza degli altri non solo turisti tipo Elena che ci va spesso eccetera, ho un rapporto un po', come posso dire, cioè mi viene più fluida e più immediata all'Asia rispetto all'Africa. Cioè, hai il richiamo verso l'Asia, dai, mettiamola così. Sì, devo saranno dire, i tuoi occhi a mandorla forse, dai. Non lo so, guarda, però vabbè, insomma, senti che il tuo cordone umbilicale è più legato a quel continente che all'Africa. E ho detto, beh, dopo un piccolo ho detto, ma guarda, c'è stata Francesca, che la prossima settimana credo che ci sarà lei qui come testimone di Non Solo Turisti, anni fa, e ha scritto un bellissimo post sull'Etiopia. E credo che da lì a poco ci sarebbe poi andata anche Elena, che aveva fatto l'esperienza della Mo Valley con tutte le sue criticità poi. E insomma questa cosa da quella cena tra tortelli e lambrusco è diventato poi un progetto di viaggio, un progetto che poi da quattro siamo diventati due, perché queste nostre due amiche fanno un lavoro insomma che potevano scegliere anche altri periodi in cui andare in viaggio, invece io sono molto condizionata appunto dalla scuola, e le nostre strade si sono divise e io ricordo insomma siamo andati, abbiamo proseguito con questo progetto di andare in Etiopia, seguendo un po' le tracce di Francesca Manfredi, che appunto aveva scritto circa due o tre anni fa un post, secondo me molto bello, sulla sua esperienza e sull'agenzia di viaggi locale a cui si era affidata. E dunque siamo partiti, insomma, dopo circa un anno siamo partiti. Subito sull'articolo, dopo appunto questa introduzione che fai del racconto, appunto, e poi è tutto scansionato appunto dai punti che si devono fare per arrivare appunto al viaggio senza avere problemi. E la prima cosa è il visto, cioè, sì. Quindi come è stato? Tu come hai fatto? Perché racconti che si può fare sia in aeroporto, in base a quando si arriva. E spiegaci un po' invece tu come hai fatto questa operazione. Allora, io ho chiesto informazioni a Francesca, però essendoci andata almeno 3 anni fa, così a memoria, sai che rispetto ai visti, così bisogna sempre essere molto aggiornati e insomma, ho chiesto poi successivamente ad Elena come aveva fatto, che ci è andata circa un anno fa, e lei mi ha mandato il link del sito online su cui farlo, su cui poterlo fare. Allora, le possibilità sono due. Naturalmente necessitiamo di un visto per entrare in Etiopia, noi non residenti in Etiopia, insomma, non aventi passaporto etiope. Però appunto si può fare o direttamente in aeroporto, ma mi avevano detto di lunghe file, comunque poi dipende dall'orario in cui uno arriva, però può capitare di avere delle lunghe file, lunghe soste per poterlo ottenere. Già la burocrazia in uscita comunque dall'aeroporto, insomma, è abbastanza pressante, e dunque meglio evitare. Oppure online, compilando il modulo, seguendo passo per passo quello che ti chiedono, scansionando il passaporto, mettendo una foto eccetera, in pochissimi minuti direi, perché la risposta ci è arrivata praticamente subito dopo, e pagando attraverso carte di credito, credo a memoria $50, dunque circa €48, si ottiene questo previsto che tu devi presentare. Anche in aeroporto te lo possono chiedere prima di partire, già in Italia. Se però non ce l'hai, non c'è problema, perché appunto lo puoi ottenere all'arrivo. Però ecco, è una semplice burocrazia, basta avere comunque 6 mesi di passaporto ancora valido e senza problemi si ottiene un visto turistico di 30 giorni, se non ricordo male, al costo di circa €48. Capito. Poi il volo, la partenza, come è avvenuta? Da dove sei partito? Il volo, allora, voi sapete che io volo sempre con largo anticipo, infatti sto già pensando dove andare a Natale prossimo, ma semplicemente perché i voli costano molto meno, insomma, potendo progettare un po' prima i viaggi. E insomma, io credo a febbraio di averlo comprato, del 2019, il volo, gennaio-febbraio, appena uscito praticamente, e ho volato con la Turkish da Bologna, scalo molto comodo a Istanbul, sia l'andata che il ritorno. Tra l'altro a Istanbul ora c'è un aeroporto che è bellissimo, dove si può passare tranquillamente uno scalo di un paio d'ore senza neanche accorgersene, e con molti servizi, molti comfort, negozi e quant'altro. E ho pagato, credo per tutti e due sui €960, mi sembra di ricordare, dunque veramente una cifra molto abbordabile. E si può volare anche dall'Italia direttamente da Milano con Ethiopian Airlines, che tra l'altro è un'ottima compagnia, con un volo diretto. Ma questo naturalmente costa di più. Può convenire però prendere, poi dipende sempre dai periodi, ma nel periodo in cui ho visto io costava molto di più. Può convenire comunque prendere l'Ethiopian Airlines anche ad un prezzo maggiore rispetto ad un'altra compagnia, nel caso in cui si facciano dei voli interni, perché l'Ethiopian Airlines, nel momento in cui acquisti un volo intercontinentale, ti fa uno sconto del 50% per i voli nazionali. Dunque, se in Etiopia ha intenzione di fare dei voli nazionali, potrebbe convenire comunque, anche se costa un po' di più all'inizio, un volo a Ethiopian Airlines. Ok, Barbara, ci facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un brano e poi ritorniamo ancora, certo, in tua compagnia qui su Radio EcoSud e su Radio Stonata. Perfetto. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it.